Europa 24. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Una riunione di emergenza dell'Eurogruppo da tenersi venerdì o lunedì potrebbe dar via libera a quasi 5 miliardi di nuovi finanziamenti per Atene. Lo dice oggi la stampa greca. Secondo fonti di Tovima, questo pacchetto da 4 e 9 miliardi comprende 1 e 9 miliardi dal vecchio programma SMP di acquisto di titoli pubblici da parte della BCE. Ulteriori 1 e 2 miliardi di euro arriveranno dalla ASM. Questi 3 e 1 miliardi potrebbero aiutare la Grecia a coprire il proprio fabbisogno d'aprile senza attuare misure del precedente programma. Ma l'Unione Europea attende ancora questa lista delle riforme promesse dai greci da elaborare in stretta cooperazione con le istituzioni. Domani ci sarà una teleconferenza dell'Euro Working Group per valutare i progressi, ma è improbabile che ci sarà un Eurogruppo venerdì. Così almeno dicono fonti dell'Eurogruppo, che comunque resta pronto a riunirsi in qualsiasi momento. La democrazia e la cultura sono più forti del terrorismo, il messaggio portato a Tunisi oggi dal ministro degli esteri Gentiloni, che in colloquio con il presidente SBS ha annunciato che l'Italia assieme alla Francia proporranno iniziative per consentire investimenti in Tunisia nell'ambito del piano Juncker. Vacanze estive, ecco quanto durano in Europa. Italia record durante i mesi caldi, ma altrove si recupera durante l'anno. Non ci sono solo le vacanze estive per gli alunni europei, ma anche Natale, Capodanno, pause autunnali, una sosta invernale o legata al carnevale o le vacanze pasquali. Non è tanto la durata delle vacanze nei mesi caldi a contare in Europa, quanto la distribuzione di altre pause dallo studio nel corso dell'anno. Come sottolinea nell'ultimo rapporto di Euridice, la rete europea di informazione sull'istruzione relativo all'anno scolastico ancora in corso negli istituti primari e secondari, cioè dall'elementare ai licei. Certo, arrivano a 13 le settimane della pausa estiva degli studenti italiani, una delle più lunghe del vecchio continente, ma a differenza degli altri paesi dell'Unione, da noi non c'è quella serie di interruzioni in totale da 1 a 10 giorni per ricorrenze pubbliche o religiose sparpagliate nei mesi. Ad esempio, ai ragazzi tedeschi, danesi, inglesi si concederanno quest'anno appena 6 settimane. Berlino e il Länder prevedono però molte altre pause senza libri per l'autunno, per Pasqua e per quella che in Italia non è prevista, la vacanza primaverile, fino a 11 giorni fra fine aprile e giugno. Più lunghe e simili alla nostra le sospensioni estive dei paesi del sud Europa, come quelle dei greci, portoghesi, ciprioti e maltesi, fra le 10 e le 13 settimane, associate però, come da noi, a un anno scolastico con meno pause per studenti e insegnanti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel 2014 circa 25.700 persone sono morte in incidenti stradali nell'Unione Europea, 200.000 hanno riportato ferite gravi. La situazione registra una lieve flessione, 1% sul 2013. La media europea di morti in incidenti stradali è di 51 per milione di abitanti. Il dato italiano è leggermente superiore, con 52 morti. Il maggior numero di morti in Lettonia, Romania, Bulgaria, Polonia, con oltre 80 per milione. Così almeno le statistiche della Commissione europea. 14, 5 minuti, 26 secondi. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.